peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi tre musiciste, tre signore, si va da una protagonista assoluta adesso sulla scena internazionale che è Mary Halvorson ad altri personaggi che hanno diciamo meno visibilità e sono anche sicuramente conosciuti di meno, però sono tre lavori interessanti usciti recentemente. Addirittura per Mary Halvorson è uscito un paio di settimane fa e dicevo sono, è interessante vedere come quante sono le figure femminili che non solo come dire, emergono tra le figure più interessanti e attuali della, sulla scena jazzistica internazionale, ma che oltretutto svolgono anche, ricoprono un ruolo particolarmente interessante da un punto di vista proprio della collocazione stilistica sul panorama musicale, che è sempre, come dire, la parte più interessante, il punto di confine tra il linguaggio jazzistico e altri tipi di linguaggio, sempre più frequente il linguaggio con il confine con la musica contemporanea. Mary Halvorson è uscita con questo ultimo lavoro piuttosto atteso, intitolato Claude Ward, con una formazione che già da qualche tempo ha avuto modo di rodare un proprio interplay, una propria compattezza. Peraltro in gran parte questo gruppo, lo abbiamo ascoltato anche al Torrione di Ferrara proprio un anno fa più o meno. La formazione, oltre che alla Halvorson, alla chitarra, la vibrafonista Patricia Brennan, il basso di Nick Dunstan, Thomas Fujiwara alla batteria, sempre come dire, immancabile nel gruppo dell'Halvorson ormai da tempo, trombonista bravo, interessante, anche una, come dire, regista di arrangiatore, Jacob Garklick, e alla tromba, a mio avviso, straordinario, Adam O'Farrell, che sempre più si fa apprezzare come un sideman insostituibile, ha una preparazione tecnica veramente straordinaria, e una lucidità, una nitidezza nel fraseggio, nella intonazione del suo strumento, che lo rendono particolarmente efficace proprio su partiture complesse o su anche improvvisazioni come dire, di intensità, di velocità elevata. È presente anche un altro personaggio, questo veramente di primo piano, e non solo, non certamente nel jazz, ma comunque nella musica pop o in una musica più trasversale. Si tratta di Laurie Anderson, che è presente in una recitazione in un brano. E quindi interessante vedere anche queste interazioni. Ovviamente Laurie Anderson non è certo nuova a questa vicinanza con un mondo che esce da quello suo normale, e Mary Halvorson sta dimostrando già negli ultimi tempi, già anche l'anno scorso, sta dimostrando una notevole capacità di maturazione stilistica, dedicandosi maggiormente all'aspetto più compositivo meno viziata da queste distorsioni della chitarra che l'hanno contraddistinta per molto tempo e che diventavano anche un suo limite. Attualmente lo usa molto meno questo trucco che le dà anche poi la sua riconoscibilità. Ascoltiamo tre composizioni prese appunto. Thank you. Questo era l'ultimo lavoro di Mary Halvorson, con una formazione interessante, ricca, che appunto ha dato vita a questo Cloud World decisamente riuscito. Un'apertura di quest'anno che fa sperare in un'annata di proposte musicali di alto profilo. Un altro personaggio, in questo caso decisamente poco conosciuta, però sta emergendo come una musicista interessante, è una canadese, anche se di origine germanico-italica, da quanto si può capire. Si chiama Lina Allemano ed è una trombettista giovane, non giovanissima, ma quindi ha già un'esperienza, comunque piuttosto giovane. Diciamo che è nata come una musicista che si colloca proprio nel confine con la musica contemporanea. È veramente una quantità di musicisti di primissimo livello che vengono dal Canada. C'è una formazione, una scuola di formazione, una possibilità anche di confronto e di crescita in Canada, che è veramente notevole. Poi di fatto poi molti si spostano a New York, soprattutto nell'ambito newyorkese. L'Allemano l'anno scorso ha dato vita a due progetti, uno in quartetto, piuttosto bello ma piuttosto anche complesso, e un altro con una formazione varia, che ha un progetto, persegue un progetto, si intitola Canons ed ha una suggestione di musiche barocche o forse ancora prima, di Gregoriano, e dimostra una ottima capacità di costruzione sia stilistica che tecnica, si avvale dell'aiuto di diverse collaborazioni. Molto presente è Peggy Lee col violoncello, Brody West clarinetto, Mike Smith agli effetti speciali, e Rob Clapton al contrabbasso, Ryan Driver al sintetizzatore, Tim Posgait alla chitarra, Mattias Muller al trombone. Non sono nomi certo molto conosciuti, a parte Peggy Lee e Mattias Muller, ma di ottima preparazione, e seguono quello che è il progetto in maniera impeccabile, questo progetto dal quale ascolteremo tre momenti, anche frammenti di brani, perché poi è anche musica complessa indubbiamente, che non ha, l'ascolto radiofonico non la premia di sicuro. Comunque vale la pena di conoscerlo, questo personaggio. Ascoltiamo queste tre composizioni. Thank you. Questa era Lina Allemano, trombettista di grandi qualità, col suo ultimo lavoro, Canons, quindi dedicato appunto alle musiche rinascimentali. E, un disco, a mio avviso, e non solo a mio avviso, decisamente bello, interessante anche, ricco, anche se complesso, e che ha avuto anche un consenso internazionale di un certo spessore. Altra canadese, in questo caso definitivamente trapiantata a New York, Anna Weber, sassofonista, flautista, e soprattutto compositrice, direttrice d'orchestra, arrangiatrice, una donna di musica veramente di alto profilo, che ormai ha già al suo attivo diverse esperienze, anche di conduzione orchestrale. E anche lei proviene da una formazione di tipo accademico, tipo classico, è stata anche, come dire, compositrice di varie partiture di tipo classico, cosiddetto classico, eseguite da orchestre sinfoniche in giro per il Canada soprattutto, ma anche da altre parti. E da tempo predilige il linguaggio jazzistico, è uscito per la Intact Records, etichetta svizzera, benemerita etichetta svizzera, è uscito un disco in quartetto, quintetto, l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, che a mio avviso ha notevoli qualità. Oltre che alla presenza appunto di Anna Weber al sax tenore e al flauti, ancora una volta troviamo Adam O'Farrell alla tromba, che appunto a conferma anche di quanto sia richiesta la sua presenza in formazioni che necessitano di una qualità tecnica elevata. Altro personaggio molto interessante, il pianoforte, sintetizzatore, tastiere, Elias Stemeseder, che anche lui è uno dei talenti sulla tastiera più interessanti della sua generazione, insomma dell'ultima generazione, giovane. Poi Marielle Roberts al violoncello e Leslie Mock alla batteria. Leslie Mock è sempre più presente negli ultimi lavori che escono tra le novità discografiche. Batterista interessante e che appunto in crescita, evidentemente in crescita. Ascoltiamo, preso da questo disco Shimmer Winds, ascoltiamo tre composizioni. Yeah. Thank you. Ecco, questa era Anna Webern, l'ultimo lavoro uscito per la Intact Records, Shimmer Wines. È una piccola formazione, ma di alto livello: Adam Farrell alla tromba, Elias Sommerseder alle tastiere, Marielle Roberts al cello e Leslie Mock alla batteria, alle percussioni. È un ottimo risultato, a mio avviso, di quest'ultimo lavoro, che è piuttosto compatto anche come composizione, un ottimo equilibrio tra l'aspetto compositivo e quello improvvisativo. Era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le trovate nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione musica playlist. Salve a tutti e alla prossima.